Levitico capitolo dodicesimo. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: «Parla così ai figlioli di Israele. Quando una donna sarà rimasta incinta e partorirà un maschio, sarà impura 7 giorni. Sarà impura come nel tempo dei suoi corsi mensuali. L'ottavo giorno si circonciderà la carne del prepuzio del bambino, poi ella resterà ancora 33 giorni a purificarsi del suo sangue e non toccherà alcuna cosa santa e non entrerà nel santuario finché non siano compiuti i giorni della sua purificazione. Ma se partorisce una bambina, sarà impura 2 settimane come al tempo dei suoi corsi mensuali e resterà 66 giorni a purificarsi del suo sangue. E quando i giorni della sua purificazione per un figliolo o per una figliola saranno compiuti, porterà al sacerdote all'ingresso della tenda di convegno un agnello d'un anno come olocausto e un giovane piccione o una tortora come sacrificio per il peccato. E il sacerdote li offrirà davanti all'Eterno e farà l'espiazione per lei, ed ella sarà purificata del flusso del suo sangue. Questa è la legge relativa alla donna che partorisce un maschio o una femmina. E se non ha mezzi da offrire un agnello, prenderà 2 tortore o 2 giovani piccioni, uno per l'olocausto e l'altro per il sacrificio per il peccato. Il sacerdote farà l'espiazione per lei ed ella sarà pura.